Sì, andavamo con la mamma perché la mamma le piaceva molto Castelbesena, la mamma era molto romantica e le piaceva moltissimo, però anche Castelbesena ai miei tempi era un mucchio di rovine, non era restaurato come adesso ed era anche pericoloso andarci, però andavamo a fare delle passeggiate su dal Maso Trappa, andavamo su. Sempre fra gli sgrebeni, pericoloso, i sassi, allora no, tornate indietro, tornate indietro, attenti qua, attenti là. Però era una delle nostre gite.